24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi la decisione della Banca Centrale Europea che ha dato il via libera al programma di acquisto dei bond dei paesi più a rischio. Le borse mettono il turbo dopo le attese dei giorni scorsi, anche se emerge la spaccatura con l'ala dei rigoristi tedeschi. Intanto la Commissione Europea denuncia, in Europa 116 milioni di persone sono a rischio povertà. Sempre Bruxelles ha aperto un'inchiesta anti-dumping sull'importazione di pannelli solari dalla Cina. Infine vi racconteremo la mobilitazione dei tabaccai europei contro la revisione della direttiva comunitaria sui prodotti del tabacco. Il D-Day della Banca Centrale Europea ha partorito dunque l'atteso programma di acquisto dei bond dei paesi dell'Eurozona sotto pressione. Il nome sarà Outright Monetary Transactions, l'acronimo OMTS. Dobbiamo difendere l'integrità della politica monetaria dell'Eurozona, ha affermato il presidente della BCE Mario Draghi per giustificare la mossa, che ha avuto un solo voto contrario in seno al consiglio direttivo, quello della Bundesbank. Il piano prevede l'acquisto sul mercato secondario di titoli di Stato fino a 3 anni. Gli acquisti da parte della BCE non avranno limiti quantitativi ex ante, saranno cioè illimitati, anche se la dimensione degli acquisti di bond sarà adeguata al conseguimento degli obiettivi. Draghi ha sottolineato come questo sia coerente col mandato della BCE, in particolare con l'articolo 18 dello statuto. Il piano sarà indirizzato a risanare distorsioni di breve periodo sui mercati finanziari, ha precisato, e il piano porrà anche condizioni precise ai paesi che ne faranno richiesta, tanto che Francoforte interromperà le proprie azioni di acquisto in caso di mancato rispetto degli accordi. Tra le altre cose, la BCE ha deciso di ampliare le garanzie che le banche possono fornire in cambio di liquidità. Ma sentiamo ora un passaggio dell'intervento di Mario Draghi. Sono stati osservati premi per il rischio eccezionalmente elevati nei prezzi dei titoli di Stato di diversi paesi e la frammentazione finanziaria ostacola un funzionamento efficace della politica monetaria. La parte di premio di rischio legata ai timori sulla reversibilità dell'euro è inaccettabile e deve essere affrontata in modo fondamentale. L'euro è infatti irreversibile. Al fine di creare le condizioni che avviino una riduzione di questi premi a rischio, i responsabili delle politiche nella zona euro devono portare avanti con determinazione il risanamento dei bilanci, le riforme strutturali, oltre ad agire con grande determinazione per il rafforzamento delle istituzioni europee. Poiché l'attuazione di queste misure richiede tempo e i mercati finanziari reagiscono spesso solo di fronte a risultati tangibili, i governi devono essere in ogni caso pronti ad attivare i fondi EFSF-ESM, qualora le condizioni lo rendano necessario. La Banca Centrale Europea ha lasciato anche i tassi invariati allo 0,75%, Francoforte ha lasciato invariato pure il tasso marginale all'1,5% e quello sui depositi a 0. Nota curiosa a margine dell'incontro BCE, l'inconsueta partecipazione come ospite del presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker. Oltre a Juncker, alla riunione ha partecipato anche il vicepresidente della Commissione Europea Olli Rehn, responsabile per gli affari economici. Il premier Mario Monti ha molto apprezzato che nella propria indipendenza, che deve essere rispettata da ciascun paese membro, dalla BCE si è arrivata a questa decisione. Monti ha parlato nel corso dell'incontro col presidente della Commissione Barroso, il quale ha confermato la BCE sta agendo nell'ambito del suo mandato, che è quello di mantenere l'integrità politica monetaria, e dovrebbe agire in piena indipendenza così come sta agendo. Tutto ciò è essenziale, dice Barroso, per la credibilità della Banca Centrale. Il Fondo Monetario Internazionale apprezza fortemente le azioni della BCE ad annunciarlo, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg e lo stesso FMI. Reazione molto negativa invece dalla CSU, partito gemello bavarese della CDU di Angela Merkel. Il Partito Cristiano Sociale critica aspramente il piano BCE sull'acquisto dei bond. Il finanziamento degli stati stampando moneta è sbagliato e pericolosissimo, dice il segretario Alexander Dobrindt. La BCE deve essere una banca della stabilità, non dell'inflazione. Siamo i mercati che hanno reagito con grande entusiasmo alla mossa della BCE. Il FTSE MIBA ha guadagnato il 4,31%, l'IBEX di Madrid il 4,91%, bene hanno fatto anche Francoforte più 2,91%, Parigi più 3,06%, Londra più 2,11%. Spread ai minimi, quello italiano è precipitato a 370 punti, quello spagnolo a 445 punti. E nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo dell'Eurozona ha registrato una flessione dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, lo rende noto Eurostat. L'Unione Politica Europea non è più tabù, a dirlo il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un discorso a Mestre. E il continuo peggioramento della situazione del lavoro è la maggiore preoccupazione in un'Europa in cui 116 milioni di persone sono a rischio povertà. È scritto nel documento della Commissione Europea per la conferenza Jobs for Europe. Nel testo si denuncia che, oltre all'aumento della disoccupazione arrivata all'11,2% dell'Eurozona, il lavoro è diventato anche più precario. Quasi il 94% dei lavori creati nel 2011 sono part-time e il 42,5% dei giovani a contratti a tempo determinato. I redditi delle famiglie nell'Unione Europea si sono ridotti in 2 stati su 3 dopo il 2011, provocando l'indebolimento della domanda, ha aggiunto il presidente della Commissione Europea Josep Barroso, ricordando che tra il 2009 e il 2011 i redditi erano stati protetti dagli stabilizzatori automatici. Lo scopo della riforma del lavoro introdotta in Italia è una riduzione permanente del nostro tasso di disoccupazione, lo ha ricordato il ministro per il lavoro Elsa Fornero, intervenendo a Bruxelles alla conferenza Jobs for Europe. La Fornero ha definito la riforma pienamente coerente con i principi di inclusione e dinamismo contenuti nel pacchetto europeo sull'occupazione. La Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping sull'importazione di pannelli solari provenienti dalla Cina. Bruxelles intende accertare se le cause di concorrenza sleale mosse dall'Associazione degli industriali europei del settore EUPROSAN siano fondate, in particolare se i prodotti cinesi vengano venduti a prezzi inferiori al valore di mercato. Le autorità di Pechino si sono dette molto dispiaciute per l'inchiesta antidumping. La Serbia non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo, lo ha confermato al suo ritorno dalla visita a Bruxelles il premier Ivica Dačić. Un quadro allarmante sull'analfabetismo in Europa, quello che emerge dallo studio di un gruppo di esperti istituito dal commissario europeo Andrulla Vassiliou, che discuterà del tema con i ministri dell'istruzione degli altri paesi europei a Cipro il 4 e 5 ottobre. Servizio. Un 15enne su 5, anche circa 75 milioni di adulti, sono privi delle abilità di base nella lettura e nella scrittura. Insomma, non sanno leggere e scrivere, il che rende difficile per loro trovare un lavoro e aumenta la loro esposizione al rischio povertà. I paesi europei che vedono la maggior percentuale di studenti che fanno fatica a leggere sono la Bulgaria e la Romania, con oltre il 40%, anche se hanno migliorato di ben 10 punti rispetto al 2006. La Finlandia invece registra la minor percentuale, solo l'8,1%, con una percentuale però in crescita del 3,3%. È tempo che l'Europa si ponga obiettivi più ambiziosi e assicuri l'alfabetizzazione di tutti, ha commentato la principessa Laurentienne, presidente del gruppo di esperti. Gli investimenti in questo campo sono economicamente vantaggiosi perché producono un guadagno tangibile per i singoli e per la società, che si traduce in miliardi di euro nel lungo periodo, ha osservato invece il commissario europeo all'istruzione e alla cultura Andrulla Vassiliou. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giornata di mobilitazione per i tabaccai italiani ed europei contro le proposte di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco, che saranno presentate dalla Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori della Commissione. Tra le misure, quella di rendere tutte le sigarette uguali per sapore e gusto, nascondere i pacchetti di sigarette coprendole alla vista del pubblico, togliere marchio e logo rendendo il pacchetto neutro di colore olivastro, riempiendolo per intero con immagini shock. Per i tabaccai si tratta di misure che non otterrebbero una tangibile diminuzione della propensione al tabagismo. Giovanni Risso è presidente della FIT e attuale presidente della Confederazione dei Tabaccai Europei. Assolutamente no, non c'è un riscontro in questo senso, in nessuna maniera. Oltretutto lei capisce che mentre le sigarette legali avranno questa caratteristica che abbiamo visto prima, le sigarette illegali continueranno a essere quelle di oggi. E quindi lei capisce che il fumatore, oltre a risparmiare, trova la sigaretta che gli piace. Per noi sarebbe la morte, e però quelli che fumano continueranno a fumare. Non è un provvedimento che risolve il problema, capisce? E secondo lei? I che risolvono i problemi sono altri, sono quelli dell'educazione, di cominciare a insegnare ai ragazzi da piccoli di non farlo, cominciare a far capire qual è il danno che provoca il fumo, cominciare nelle scuole dove si può fare un'educazione più ampia e solo così si può risolvere il problema, altrimenti proibire quel proibizionismo abbiamo sempre visto che non è mai avuto riscontro che i governi si sono posti come meta finale. Il proibizionismo non paga e il ragazzo oltretutto lo farà più volentieri perché è trasgressiva la cosa. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa, un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza e regia, una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.